Piemonte, per Piemonte disse che non c'era stato neanche un fumogeno. Beh, meno male che comunque ci sono gli immediatisti indipendenti, meno male che c'è anche Facebook che ha fatto vedere i fumogeni alla stazione di Porta Nuova. Quindi sicuramente c'è un'ondata repressiva, la volontà di voler criminalizzare, la volontà di voler dividere tra chi va per fare una passeggiata, tra virgolette democratica, e chi vuole resistere in valle. In realtà non è così, in realtà la popolazione della Val di Susa è unita perché si fanno delle assemblee democratiche, perché tutti quanti loro vogliono scegliere il posto in cui vivere e come vivere in valle. Evidentemente questo dà fastidio a chi ha puntato con milioni di euro ad arricchirsi con delle speculazioni finanziarie, le speculazioni economiche, quelle che hanno provocato la stessa crisi su cui oggi noi stiamo subendo. Perché in questo modo loro vogliono combattere la crisi, ci dicono, creando dei posti di lavoro, creando queste mega opere fantastiche come la Val di Susa che non servono a niente, servono soltanto ad arricchire quelle imprese, quelle stesse società finanziarie, economiche, che alcune inchieste hanno provato, abbiamo anche viste in presa diretta o in qualche altra trasmissione televisiva, dove ben fanno vedere i rapporti che ci sono tra settori di imprese indranghiste anche e quelli che sono in valle dovrebbero costruire questa famosa opera che, ripeto, non serve assolutamente a niente. Come Lega di Difesa del Territorio siamo impegnati in Calabria contro queste mega opere faraoniche che non portano a nulla, se non ad arricchire, ripetiamo, quelle solite imprese. Ed eravamo anche presenti in valle, da sempre, in solidarietà con le popolazioni, in lotta contro i notanti. La protesta non si fermerà. Hanno già detto che la Val di Susa non verrà fermata da questa opera di repressione. Speriamo, siamo tutti con Luca, che le cose vadano al meglio. Però lo sappiano che non ci fermiamo e non abbiamo paura. Stefano. E siamo qui a Cosenza in piazza 11 settembre per transizione di fase in diradio, sta seguendo il presidio che si svolge in solidarietà di Luca e di tutto il popolo Notav. In questo momento sono le 18.30 circa, il presidio è appena iniziato, e iniziano i primi interventi al microfono, c'è il movimento cosentino che si è dato dunque appuntamento spontaneo in piazza per dimostrare tutta la propria solidarietà. In questo momento possiamo ascoltare i vari cori che recitano giù le mani dalla Val Susa. Giù le mani dalla Val Susa! E intanto, mentre Transizione di Fase sta inviando in diretta, sta rimbalzando in diretta il segnale di Radio Onda Ossa che racconta quelle che sono i vari presidi in tutta Italia, compreso il grande presidio Bussoleno, e qui a Cosenza la solidarietà diventa sempre più tangibile, sempre più persone stanno, come dicevamo, affluendo nella piazza, e a breve altri interventi.